Ok, torniamo a parlare delle elezioni in Palestina. In questa intervista con Marco Di Novara, laureato in proprio con la tesi sulla questione israelo-palestinese, volevo chiedere, c'è stato un passaggio che è durato forse un decennio che ha visto questa islamizzazione della politica palestinese, che inizialmente era principalmente laica, di estrazione, diciamo, dello socialismo arabo, aderiva all'idea del socialismo arabo in parte in allineati, però nel corso degli anni, appunto, questa idea si è implosa e c'è stato una forte entrata dei gruppi estremisti nella politica palestinese, come appunto Hamas e Jihad. Diciamo, cosa ha spinto a questa tendenza? Ma sì, questo è un processo che si riscontra in vari paesi arabi, cioè l'emersione di correnti, diciamo, antagoniste radicali legati diciamo così a quel magma ideologico che fa riferimento all'islamismo radicale. Hai ragione, nel senso che la politica palestinese è stata un ambito che ha recepito in realtà con molto ritardo queste dinamiche. È successo sostanzialmente negli anni 80, a metà degli anni 80, con l'emersione di Hamas. Soprattutto Hamas è il grande movimento islamico palestinese. La Jihad è un partito più militante, che però ha consensi nell'ottica del 2%, no? 1-2%, per cui essenzialmente parliamo di Hamas in questo senso. Secondo me, però, guardando la storia di Hamas, un tot di cose della storia più generale della Palestina si ritrovano, nel senso che è vero che Hamas è un partito islamico che è originato anche da branche dei Fratelli Musulmani, quindi una delle organizzazioni islamiche più fondamentali, anche ad ambiti economici, diciamo, ben precisi. I Fratelli Musulmani sono anche una potenza economica, direi. Sì, loro rappresentano una corrente di islamismo, diciamo così, istituzionale. Cioè, se regge il parallelo, la differenza tra gli islamisti radicali, jihadisti e la Bin Laden, e i Fratelli Musulmani, quella che passa, tra partiti comunisti di orientamento socialdemocratico e le BR, voglio dire, no? Al di là dei giudizi in merito, voglio dire, ma come per schematizzare, ecco. Per cui è sicuramente un movimento islamico, però secondo me il carattere islamico di Hamas è un carattere ideologico che è stato ed è ogni giorno continuamente sovraesposto, enfatizzato. Cioè, secondo me le ragioni del successo di Hamas sono delle ragioni legate, diciamo così, ai percorsi storici della resistenza palestinese. Cioè, Hamas ha avuto una forte crescita di consensi perché nel momento in cui stava per esplodere la prima intifada, a metà degli anni 80, e durante l'intifada, è stata una delle forze che, da un lato, nello spirito dell'intifada, che era l'intifada non solo dei religiosi ma anche dei laici, sapeva da un lato proporre un'attitudine molto conflittuale, fatta di scontri di piazza, ma anche di episodi di microterrorismo, che per la verità non erano molto non era la caratteristica fondamentale della prima intifada. E dall'altro a costruire delle forme di resistenza sociale nella società palestinese, cioè scuole, associazioni di cittadini, la rete delle moschee, di tutte le attività assistenziali che sono legate. Se pensiamo poi all'orientamento politico, al percorsi politici di Hamas, secondo me vediamo sempre all'opera una leadership che magari manda i kamikaze a morire nelle strade di Gerusalemme, diciamo così, creando questo mostro spettacolare che è il kamikaze, capito? però in realtà una leadership molto politica, pragmatica, sostanzialmente orientata sugli stessi discorsi che sono poi propri del nazionalismo palestinese. Cioè io vedrei Hamas molto più da una prospettiva, da un lato di impronta nazionalista, dall'altro diciamo così come legata effettivamente a doppio filo alla società palestinese, ma non tanto dall'adesione così teorica ad alcuni canoni dell'islamismo, dell'ideologia islamista, ma dal circuito delle attività sociali che ha saputo mettere in piedi. Da questo punto di vista la crescita di Hamas, per esempio su Fatah, è leggibile anche così, non solo perché il pensiero islamista tira di più o i palestinesi scoprono negli anni 90 islamisti, ma perché molto spesso, cioè, la sezione locale di Fatah magari è una gang di ragazzotti che se ne vanno in giro a chiedere, diciamo così, varie forme di pizzo. La stessa Fatah è un incrocio di correnti che, diciamo così, promuovono anche interessi molto clientelari nel senso stretto della parola. Insomma, Fatah subisce, diciamo così, la ripresa di Hamas perché da un lato è implicata in delle logiche perdenti del processo di pace, come è stato perdente il processo di pace degli anni 90, dall'altro perché Hamas effettivamente è in grado di garantire magari di più dal punto di vista sociale, dal punto di vista, diciamo così, della serietà dei propri militanti, della creazione di un vero tessuto di relazioni con la popolazione, eccetera eccetera. Per cui sono molto anche materiali, secondo me, le cause che ci sono dietro. È una realtà con cui bisogna confrontarsi comunque, cioè non si può ragionare o bianco o nero, cioè un soggetto politico ha un suo ruolo, ha un consenso sociale, quindi non si può liquidare semplicemente come incompatibile, come una cosa da scartare, eliminare, perché appunto ha questa impronta, se da un lato religiosa, dall'altro un po' destroide. Però comunque la situazione è più complessa, quindi vanno prese in considerazione anche queste cose qua.